C'è più spazio per i semplici passanti. Siete il solo motivo per il quale ho dei rimpianti. Infatti, i passi fatti erano falsi. Bro, io l'avrei fatti a piedi scalzi. E dall'errore ogni volta trovo la svolta. Adesso parlo da solo così almeno qualcuno mi ascolta. È questo che ho imparato. Per ogni pacca data sulla spalla c'è un coltello già infilzato. Chi trova un amico trova un tesoro. Poi quando aprì lo scrigno lui si è già fottuto l'oro. Io che sono un po' istintivo, non ho il cervello che comanda. Ma ogni punto esclamativo adesso è un punto di domanda. Io sfrutto ciò che i miei mi dicono da sempre. A volere tutto e a vivere con niente. Io non mi sento più completo da tempo. Per restare calmo bevo 10 caffè. È il risultato di quel che abbiamo scelto. Per la tranquillità oggi si paga il cachè. Vorrei star fermo ad ascoltare il silenzio. Ma adesso troppa gente in giro parla di me. Basterebbe solo trovare un senso. Se lo sei tu ti chiedo dimmi qual è. Guardati intorno, guarda sto mondo stronzo. Guardalo fino in fondo e dopo dammi il buongiorno. Chi cerca la felicità dentro la semplicità. Chi dietro un treno che va, chi dentro un Chivas Regal. A me capita in quelle sere in cui tocco il fondo e riesco il fondo del bicchiere. Ma la realtà non è quella che ti dà il bere. Quando un coro stonato sembra un canto di sirene. Bene, mettiti a vedere come avviene questa schiavitù. La vita non è quella che ti fanno godere in TV. Non cascarci pure tu, è il solito tabù. Annientano l'intelligenza e l'esistenza in pay per view. Questa non è fantascienza, oggi la merda è sul menù. Parlano di quanto splende il sole e tu sei in un iglu. Alla ricerca del giusto che non c'è mai stato. E se ci fosse stato, adesso non c'è più. Io non mi sento più completo da tempo. Per restare calmo bevo 10 caffè. È il risultato di quel che abbiamo scelto. Per la tranquillità oggi si paga il cachè. Vorrei star fermo ad ascoltare il silenzio. Ma adesso troppa gente in giro parla di me. Basterebbe solo trovare un senso. Se lo sei tu ti chiedo dimmi qual è.